Ognuno di noi guarda il futuro con speranza. E ciò è giusto. Anche chi ha posto fede in Gesù Cristo ha una speranza che non sarà delusa, il ritorno di Cristo, per rapire la Chiesa, per regnare su tutta la terra, per togliere l'ingiustizia. Però sa anche che gli avvenimenti di questo mondo non gli preservano molte speranze. Non si tratta di pessimismo o fatalismo, ma di credere a ciò che Gesù Cristo disse 2000 anni fa. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora, sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno. E sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Matteo 24, 4-12. Prima del ritorno di Cristo vi sarà una situazione di dolori, di odio, a livello mondiale. Quindi, attendere il ritorno di Cristo implica attendere tempi difficili nei quali gli uomini esprimeranno liberamente la loro natura malvagia, e ciò renderà la convivenza molto difficile, caratterizzata soprattutto dalla mancanza di amore e di fede nelle rivelazioni di Dio, anche da parte di chi si professa credente. Colui che ha una condotta sotto il controllo dello Spirito Santo, soprattutto negli ultimi tempi, dovrà soffrire ingiustamente a causa dei genitori, fratelli, parenti, amici, e toccherà con mano quanto sia forte la seduzione della menzogna. La sofferenza, l'ingiustizia non possono non far vibrare un cuore reso sensibile dalla grazia divina. Perché Dio non sempre si oppone al male, anzi, spesso lo sopporta, lo tollera. Il cuore dell'uomo, come troviamo ben descritto nel Salmo 10, è portato a pensare erroneamente che Dio non ci sia, che egli dimentichi, che non si interessi alle azioni dell'uomo. Perciò egli si sente silenziosamente autorizzato a continuare liberamente nel suo peccare, basandosi sull'infondata sicurezza di non esser mai smosso, che non vi sarà conseguenza alcuna, poiché la vita che sta vivendo gli appartiene. Conclusione. Siccome la sentenza contro una mala azione non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di far del male. Chi è un figlio di Dio, pur ponendosi delle legittime domande, pur soffrendo, perché verrà odiato anche da coloro con i quali avrà avuto un rapporto di amore particolare, non sarà mai smosso da questa granitica verità. Dio è re e sovrano assoluto di tutto quello che succede in questo mondo. Per cui, per qualsiasi motivo tu ritenga una cosa ingiusta, sappi che questa situazione viene da Dio. Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Lamentazioni 3:38. L'ingiustizia, la malvagità, ogni forma di peccato producono nel tuo cuore una reazione di sdegno, di ribellione. Proprio per questo, Dio ti ammonisce. Non irritarti a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi. Proverbi 19:19. Vi sono situazioni che tu vorresti cambiare, vorresti che fosse fatta immediatamente giustizia. Ma ancora una volta Dio ti ordina, sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non affliggerti, ciò porterebbe anche te a far del male. Salmo 37, 7-8. Spesso il conflitto interiore tra il desiderare che il malvagio riceva la giusta retribuzione e il perdono, tra la pace interiore e il sentimento che provoca l'ingiustizia, sembra non risolversi. Ma se vuoi trovare la vera pace e la risposta ai tuoi interrogativi, devi innanzitutto sradicare il tuo modo di vedere l'ingiustizia, le contrarietà ed entrare nell'ottica di Dio. Leggiamo ciò che sta scritto in riferimento a Dio, in Giobbe 11 e 12. Dio possiede la forza e l'abilità, da Lui dipendono chi erra e chi fa errare, luzzi. Dio possiede forza e sapienza, da Lui dipendono chi è ingannato e chi inganna, Dio dati. L'ingiustizia, le situazioni difficili, non sono eventi sfuggiti al controllo di Dio. Come leggiamo nella Scrittura, sia colui che inganna e fa sbagliare, sia colui che è ingannato e sbaglia, sono controllati di Dio. Se è vero che nessuno è dimenticato, perché 5 passeri si vendono per 2 soldi, 2 passeri si vendevano per 1 soldo Matteo 10 e 29 per cui il 5° era regalato, eppure neanche uno di essi, anche quello senza valore, è dimenticato davanti a Dio, Luca 12, 6. Se è vero, come dice il detto popolare, che non cade foglia che Dio non voglia, devi comprendere, o meglio rapire, le benedizioni di Dio nell'ingiustizia. Anzi, vi sono benedizioni che tu non potresti ricevere se non ci fossero l'ingiustizia o situazioni insolubili nella tua vita. Può darsi che queste asserzioni ti trovino scettico, ma le seguenti riflessioni tratte dalla Scrittura metteranno in evidenza come Dio sia sovrano sul male, al punto da trarre un beneficio da esso, come è scritto. Anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode, e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Salmo 76, 10. Prendiamo in esame alcuni esempi nella parola di Dio. Abramo e Sara erano una coppia di sposi che amavano e credevano nel vero Dio in un contesto di idolatria, sia domestica che culturale, del paese in cui abitavano. Tenendo presente che l'avere figli era considerato in quel tempo una grande benedizione, è comprensibile come essi soffrissero, perché Sarai era sterile. Proprio in questa situazione, Dio promette loro una progenie innumerevole. Se Dio avesse fatto questa promessa a chi aveva già molti figli, la promessa sarebbe stata percepita come un avvenimento del tutto naturale. Fatta però ad una coppia di sposi, vecchi e impossibilitati a procreare, la promessa aveva un valore inestimabile, al punto tale che, dopo migliaia di anni, viene ricordata in tutto il mondo. Così sono gli eventi della tua vita. Spesso Dio ti conduce in situazioni difficilissime, se non impossibili, perché tu possa constatare che solo Lui è in grado di risolverle. A nessuno di noi piace essere incastrato in una dolorosa situazione, come non era piacevole la situazione dell'indovino. Balaam, quando l'asina lo portò in un luogo stretto, dove non c'era modo di muoversi, né a destra né a sinistra. Eppure spesso, come fu per l'indovino, questo è l'unico modo per udire la voce di Dio e vedere la sua opera. Se viviamo giornalmente con una fede proiettata solo nel futuro o nel passato, ci troviamo impediti a constatare la potenza e l'amore di Dio. Considera dunque le difficoltà e impossibilità come sfide per la tua fede, come mezzi per avvicinarti a realizzare la potenza di Dio, il suo amore, la sua giustizia. Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, non era ben voluto dai suoi fratelli. Questi, per invidia, lo vendettero ad una carovana di ismaeliti. Dopo aver trascorso ingiustamente alcuni anni in prigione, diventa viceré di Egitto, potendo così salvare Giacobbe con tutta la sua famiglia dalla carestia. Giuseppe fu uno strumento nelle mani di Dio per salvare il suo popolo. L'Eterno Dio si è servito dell'invidia dei suoi fratelli per attuare il suo piano, far crescere un numero esiguo di persone, fino a farli diventare una nazione. Quante volte certi torti e ingiustizie sono tornate a tuo favore? Avresti mai ricevuto certe benedizioni senza aver subito delle ingiustizie? Le prove non sono forse motivi di gioia, sapendo che la prova della tua fede produce costanza. Nelle difficoltà, l'importante non è essere subito vittoriosi nelle situazioni, ma non essere perdenti in seguito. Passarono più di 400 anni da quando Giuseppe era diventato viceré, e gli israeliti, da poche centinaia di persone, crebbero fino a diventare centinaia di migliaia. Il faraone, impaurito dal loro numero, ordinò di uccidere tutti i bambini maschi. Proprio per questo ordine ingiusto e crudele, Mosè sarà portato alla corte del faraone. Se non vi fosse stata questa situazione, la mamma di Mosè non avrebbe portato il bambino al fiume. La figlia del faraone non lo avrebbe adottato come figlio. Mosè non avrebbe potuto crescere nella conoscenza e nell'istruzione alla corte del faraone. La malvagità del faraone è stata uno strumento per i piani di Dio. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Salmo 2:4. Considera la tua vita e scoprirai come Dio ti aveva preparato, prima che tu lo conoscessi, per darti la possibilità di essere uno strumento nelle mani di Dio in quella situazione, dove altri avrebbero fallito. Il popolo di Israele viveva nella sua terra, ma veniva continuamente angustiato dalle popolazioni vicine. Proprio in quel tempo, un uomo aveva due mogli, una delle quali era sterile. La moglie feconda disprezzava continuamente la sterile, e questo proprio mentre era alla presenza di Dio. Come è vile il nostro cuore quando si serve della forma religiosa per fare del male. In questa situazione, Anna prega Dio perché le dia un figlio. Desiderava tanto un figlio, che promise a Dio di donarglielo se lo avesse avuto. Il figlio che Anna donerà a Dio è Samuele, il grande uomo di Dio, che fu giudice di Israele e un sere sia Saul che Davide. Avrebbe mai Anna consacrato suo figlio a Dio se non fosse stata inizialmente sterile? Non è forse indotta una persona a fare dei voti a Dio quando è costretta da qualche situazione? Come può invocare aiuto colui che non è nella difficoltà? Perché tu possa compiere un gesto di consacrazione, spesse volte Dio ti mette in circostanze difficili e a volte impossibili. Il dolore e la sofferenza sono validi strumenti di Dio per farti avvicinare a Lui. Chi ha posto fede in Gesù Cristo non è un masochista, uno che cerca il dolore per essere felice, ma uno che ha compreso che la scelta di porre fede nel suo Salvatore lo pone spesso in situazioni di sofferenza, sofferenza che faceva parte del contratto quando egli si è posto sotto l'autorità di Cristo. La prova più evidente che l'ingiustizia serva ai piani di Dio è stata certamente la morte di Gesù Cristo. Era stato preordinato, prima della fondazione del mondo, che il Figlio di Dio morisse ingiustamente in croce. Ma come ciò poteva avvenire se non per mezzo della malvagità delle persone? Poteva Gesù morire in croce ingiustamente se l'odio degli uomini per la verità non fosse stato estremo? Poteva Gesù Cristo essere il Salvatore se gli uomini fossero stati degni di andare in cielo? Non sarebbe morto inutilmente? Quante volte l'ingiustizia degli uomini è stata per te una benedizione? Molto probabilmente non comprendi subito le benedizioni che Dio ti vuole dare, come nel caso di Gesù. Ma alla fine della prova, come per Gesù, il tutto è risultato a tuo vantaggio. Patendo ingiustamente, Gesù ha salvato il mondo. Soffrendo ingiustamente, tu ti puoi salvare, evitare da certi errori, puoi aiutare gli altri in modo efficace e dare una testimonianza della tua fede, che è più preziosa dell'oro, dimostrando come Dio ha operato. Posso testimoniare che se non avessi avuto tante difficoltà nell'ambito della mia fede, questa sarebbe molto più debole. Un uomo di Tarso, chiamato Saulo, perseguitava con il massimo zelo i cristiani. Gesù Cristo lo ferma in questa sua malsana attività e Saulo da Tarso si trasforma in uno dei più grandi evangelizzatori del mondo. Poteva Saulo, chiamato Paolo, diventare quello che in seguito è diventato se, prima della conversione, non avesse perseguitato la Chiesa? Forse sì, perché a Dio tutto è possibile, ma i metodi di Dio rispettano la natura umana. Se è vero che colui che ha avuto poco da farsi perdonare, poco ama, Luca 7:47, allora è anche vero che, spesso, le persone più attive nel campo di Dio hanno avuto, prima della conversione, molto da farsi perdonare. Ciò deve fare riflettere. Nulla è perduto. Se hai una vita fallimentare, se sei arrivato ai livelli morali più bassi, per te in Cristo ci c'è un avvenire glorioso. Tu sei la persona adatta per Dio. Egli usa dei relitti per farne dei pezzi importanti. Egli usa i falliti perché sono coloro che maggiormente sanno confidare in Dio. Non c'è è caduta che Dio non possa rialzare, non c'è è rottame che Dio non possa trasformare. Un enorme blocco di marmo giaceva abbandonato da 40 anni da Agostino di Duccio. Fu poi assegnato, senza fortuna, ad Antonio Rossellino nel 1476. Il colossale blocco rimase nel cortile dell'Opera del Duomo finché il giovane Michelangelo se lo vide affidare, con contratto, nell'agosto 1501. Il 25 gennaio del 1504 la statua era pressoché terminata. La statua, oggi, ammirata da tutto il mondo, è il David. Da un blocco di marmo abbandonato, inutilizzato, senza valore, un grande artista ha saputo creare una delle statue più belle e perfette che l'uomo possa scolpire. Se un uomo che ha ricevuto la sapienza da Dio è stato in grado di creare da una cosa insignificante una delle opere più belle, quanto più il nostro Dio potente, eterno, sarà in grado di compiere un'opera meravigliosa, eterna, superba, in te che sei stato creato a sua immagine e somiglianza, se tu non diventi uno strumento valido per Dio, non è dovuto alla tua pochezza, ma al fatto che non ti lasci modellare dal tuo creatore. Lascia che egli scolpisca in te la persona che egli vuole che tu sia, e allora avrai raggiunto lo scopo della tua vita, quello di fare la volontà di Dio. In una sua lettera Paolo scrisse che, a causa di un'infermità della carne, aveva evangelizzato gli abitanti della regione della Galazia, Galati 4:13. L'apostolo Paolo non parlava di Gesù Cristo solo quando le cose andavano bene, ma in tutte le circostanze della vita. Noi desideriamo vivere sani, sereni, senza tanti scrolloni. Appena abbiamo difficoltà di salute, siamo così intenti a guarire, da dimenticarci di essere dei testimoni di Gesù. Ma Paolo non si faceva vincere dalle malattie. Anzi, proprio in una situazione di infermità, colse l'occasione di testimoniare della sua fede. Quante volte andiamo dal dottore e abbiamo occasione di testimoniare? Quante volte abbiamo i nostri figli ammalati e facciamo conoscenza con altri genitori nella stessa situazione, potendo così parlare con franchezza della nostra fede? Se la vita fosse sempre esente da malattie e prove, come potremmo frequentare certi luoghi e testimoniarvi? Come potrebbe essere portata la parola di Dio fra i disabili se dei genitori cristiani non avessero dei figli con quelle stesse menomazioni? Certo, Dio può tutto, ma noi non possiamo fare tutto e andare ovunque, a meno che non vi siamo costretti. Gesù disse ai suoi apostoli che avrebbero testimoniato alle autorità quando sarebbero stati incarcerati. Gli apostoli non avrebbero potuto andare di loro spontanea volontà davanti alle autorità. Le autorità non avrebbero ascoltato il Vangelo in un'occasione che fosse stata creata in seguito ad una loro decisione. Gli apostoli, alcuni figli di Dio, avrebbero avuto tale opportunità se non fossero stati incriminati e condannati ingiustamente. Nelle assise dei cieli capiremo i meravigliosi piani di Dio. La nave sulla quale era imbarcato Paolo come prigioniero fece naufragio. Per questo evento casuale, Paolo poté testimoniare della sua fede alle 275 persone imbarcate sulla nave e agli abitanti dell'isola di Malta. Noi preghiamo sempre di fare un buon viaggio. Preghiamo che tutto vada bene. Eppure, una ruota sgonfia, un fuori programma, un incidente, ci può dare l'occasione di portare la parola a qualcuno che non avremmo incontrato in condizioni normali. Dio è il padrone delle circostanze. Più che pregare per le situazioni perché siano sempre favorevoli, prega perché in ogni circostanza tu sia un testimone di un Dio che non ti lascia mai solo e si cura di te, o, come rendono altre versioni, gli stai a cuore, a lui importa te. Il mondo ha bisogno di conoscere delle persone che percepiscono la presenza del grande Salvatore nei momenti più difficili della vita. Il mondo ti osserva, più di quanto tu non creda. Esso rimane sbalordito, vedendo che le tue reazioni nelle difficoltà sono diverse da quelle che accomunano i suoi figli. Quando lavoravo, succedeva che mi schiacciassi il dito con un martello. Con un dolore atroce mettevo il dito in bocca, davo un sospiro e poi continuavo il mio lavoro. Più di una volta i miei compagni di lavoro commentavano: «Guarda solo! Non bestemmia! Testimoniavo di Gesù quale mio Salvatore e Signore, ma se nel dolore mi fossi comportato come tutti, che valore avrebbe avuto la mia testimonianza?» L'incoerenza di coloro che confessano Gesù Cristo ha allontanato gli uomini da Dio più che l'ingiustizia e il dolore. Con il cambiamento di una sola parola, l'avvertimento di Paolo è più che mai solenne: «Ecco, tu ti chiami cristiano, ti fondi sulla legge e ti glori in Dio, conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato dalla legge, e sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttore degli insensati, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Tu dunque che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. Romani 2:17-24. È difficile leggere questo brano senza sentirsi chiamati in causa. Queste sono le vie di Dio. Egli non sempre toglie il dolore e le difficoltà, come non sempre toglie il malvagio. Forse anche tu hai una situazione difficile. Forse ti immedesimerai con il salmista, quando disse: «Poiché non è stato un mio nemico che mi ha schernito, altrimenti l'avrei sopportato. Non è stato uno che mi odiava a levarsi contro di me, altrimenti mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, un uomo pari a me, mio compagno e mio intimo amico». Salmo 55:12-13. Perché Dio lascia che il giusto e l'ingiusto convivano assieme. Però, vi è un però. Leggiamo in Proverbi 29:13. Il povero e l'oppressore hanno questo in comune: l'Eterno illumina gli occhi di entrambi. Dio fa comprendere all'ingiusto che il suo comportamento è sbagliato, ma tu hai avuto gli occhi aperti da parte di Dio per comprendere i suoi piani? Sei in grado di vedere il positivo in ogni situazione? Credi che Dio sia sovrano e vittorioso anche nel dolore dell'ingiustizia? Un comportamento del genere ti rende simile a Gesù, il quale onorò suo padre al punto che gli uomini lo ritennero colpito, percosso da Dio. Isaia 53:4. Ma egli trionfò per mezzo della croce. Gennaio 2002, Ellero.